Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1856. Parigi e Londra rompono le relazioni con Napoli, intanto scoppia la rivolta in Sicilia. Inizia la visita di Francesco Giuseppe in Veneto, insulti dalla folla. Stati Uniti, sale la tensione tra abolizionisti e favorevoli alla schiavitù, 6 morti in Kansas. E sempre in America, terribile tragedia ferroviaria, 60 vittime e 100 feriti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo nel Regno delle Due Sicilie, dove si vivono giorni di tensione sia interna che diplomatica. La rottura è maturata nei mesi, anzi negli anni, passo dopo passo, e alla fine è apparsa quasi inevitabile. E così a settembre il Morning Post ha annunciato che Francia e Gran Bretagna ritiravano gli ambasciatori dal Regno delle Due Sicilie, sostituiti da 4 vascelli di linea con un certo numero di fregate. Le comunicazioni con Re Ferdinando sono state affidate a una minacciosa forza navale. Ma come si è arrivati a tanto? Alla base della vicenda c'è anche l'astio dell'Inghilterra per il tentativo di Ferdinando di toccare la concessione sulle solfatare regalata di fatto a Londra al tempo di Napoleone. Ma questo non spiega tutto. Non spiega perché sulla stampa europea Ferdinando venga descritto con qualche esagerazione, bisogna dire, come un orco sanguinario, un oscurantista violento, un oppressore del suo popolo. Vero è che dopo il biennio rivoluzionario il sovrano di Napoli è divenuto durissimo con i liberali. Una durezza che ha portato più volte alle proteste della Francia e soprattutto dell'Inghilterra. A giugno il ministro degli esteri di Ferdinando, Carafa, ha ricordato ai francesi che nessun governo ha il diritto di intromettersi nelle questioni interne di un altro, tanto più in quelle giudiziarie. Il riferimento è alla richiesta franco-inglese di liberare dal carcere Luigi Settembrini e Carlo Poerio e di concedere qualche riforma. Londra e Parigi hanno insistito. Re Ferdinando ha risposto sprezzante che tali proposte sarebbero state atti di estrema debolezza a danno della corona e a vantaggio del partito rivoluzionario. Poi ha aggiunto: mi si lasci tranquillo. Le parole del re hanno imbarazzato persino Vienna, mentre Francia e Inghilterra hanno replicato con la rottura diplomatica. Ferdinando si è trovato a fronteggiare una nuova rivolta in Sicilia a novembre con molte preoccupazioni in più. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Atteso in Lombardia in gennaio, l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe insieme alla moglie Sissi è arrivato a Venezia. L'accoglienza è stata fredda e degli oltre 100 invitati al ricevimento ufficiale si sono presentati in pochi. Nel tragitto dall'imbarcadero al palazzo si sono sentiti insulti dalla folla. Andiamo negli Stati Uniti, dove un gruppo di attivisti favorevoli alla schiavitù ha attaccato la città di Lawrence in Kansas, guidata da uno sceriffo, Samuel Jones. La banda ha dato fuoco ad un albergo e distrutto le sedi di 2 giornali abolizionisti. La reazione non si è fatta attendere. Un gruppo di abolizionisti, appunto, ha attaccato un gruppo di coloni vicino al fiume Pottawatomi, uccidendo 5 persone. E tra Camp Hill e Fort Washington 2 treni si sono scontrati, altissimo il numero delle vittime, almeno 60, mentre sono un centinaio i feriti. Le autorità e i tecnici stanno indagando su quali possano essere le cause della tragedia. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a visitare il nostro blog, la nostra pagina Facebook, scriveteci là oppure a gazzettino@radio24.it, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata. We'll be right back.